Il 18 dicembre sarà la giornata internazionale del migrante. In questa prospettiva è stata indetta dai sindacati CGIL e CISL e UIL una manifestazione nazionale contro la politica del governo sull'immigrazione. Ma come vivono veramente gli immigrati in Italia? Possono considerarsi integrati e quali sono le esperienze che portano verso una piena integrazione degli immigrati in Italia? Siamo con Nina Paeli, un iraniano della redazione di Altri.it, un progetto editoriale il cui obiettivo è quello di far lavorare insieme cittadini italiani e stranieri, facendoli parlare di società, cultura, politica e attualità. Per presentarvi il progetto, vi posso dire che appunto esso nasce con una grande ambizione, quella di creare un laboratorio redazionale per giovani stranieri ed italiani. Quindi, essendo tutti giovani alle prime armi, ciò ci offre, oltre anche all'indubbio pregio del crescere assieme dal punto di vista professionale e giornalistico, naturalmente con la supervisione e l'aiuto comunque di esperti del settore, anche un altro lato positivo. Ogni volta il sommario di ogni numero viene redatto mediante un processo democratico di scelta fra pari. Un altro lato positivo: il sempre più progressivo inserimento di redattori stranieri o d'origine straniera nella redazione del giornale. Per esempio, tanto per fare dei numeri, nel nostro ultimo numero di luglio-settembre, un totale di 12 articolisti, ben 7, quindi ben oltre la metà, erano di origine straniera. Questa cosa ci aiuta in prospettiva anche a cercare di rompere un altro grande stereotipo legato all'identità degli stranieri in Italia. Probabilmente a tutt'oggi, per la grande maggioranza degli italiani, lo straniero extracomunitario, l'altro, tanto per citarsi, viene visto molto semplicemente come il bucumprà, l'operaio generico, le braccia di cui ha bisogno il sistema Italia per andare avanti, escludendo quindi, un po' semplicisticamente, che questo fenomeno abbia anche una consistente quota di cervelli, di intelligenza. Il nostro obiettivo è anche qui, quindi, aiutare l'emersione di questi giovani e magari in prospettiva il loro inserimento nel tessuto sociale italiano, al fine di creare, possibilmente, un nuovo tipo di società realmente multietnica e multiculturale, su piani uguali, e di non creare, quindi, una società per classi sociali ed etniche, come purtroppo si assiste in molti paesi di più antica tradizione di emigrazione. Qualora vi fossero stranieri interessati a collaborare con questo progetto, potranno scrivere a redazione@altri.it e proporre il proprio articolo. Difatti la rivista ha una versione sia cartacea e anche una versione online che punta appunto a sempre un maggiore inserimento degli stranieri nel contesto italiano. Per fare invece il punto sulla situazione dell'integrazione nella politica italiana dei cittadini immigrati, siamo con Ali Baba Faye del forum promosso dai Democratici di Sinistra Fratelli d'Italia. Con lui cerchiamo di parlare come i cittadini immigrati siano coinvolti nella politica nazionale italiana. Ci vuole spiegare il progetto Forum Fratelli d'Italia e come, secondo lei, i cittadini stranieri possono veramente partecipare politicamente, attivamente alla vita italiana? Intanto il forum nasce proprio per questo, insomma, è una struttura promossa dai democratici di sinistra. Però che prevede anche la partecipazione di non iscritti, insomma. La mission principale della struttura che coordino è quello proprio di favorire la partecipazione dei immigrati alla vita pubblica e in particolare, insomma, alla vita del partito. Il partito decide di aprirsi anche per promuovere una leva di nuovi dirigenti provenienti dal mondo dell'immigrazione, perché la convinzione di fondo è quello che fino adesso si è fatto per gli immigrati, nella migliore delle ipotesi, insomma, che è giunto il momento invece di fare con gli immigrati, coinvolgendo i soggetti direttamente interessati alle tematiche e quindi favorendo il protagonismo dei soggetti stessi. È chiaro che non è una struttura ghetto, nel senso che è una struttura composta solo da immigrati. Abbiamo voluto evitare questo perché le esperienze conosciute in Italia di partecipazione ad organizzazioni, sto pensando ad esempio all'esperienza dei sindacati o altri, insomma, che si fanno delle strutture di soli immigrati, invece noi nella nostra struttura ne fanno parte, diciamo, dei parlamentari, sia senatori che deputati del nostro partito o comunque della coalizione di centrosinistra, assessori sia regionali, comunali, presidenti di regione, insomma ne fa, anche se non partecipa tanto ai lavori, ne fa parte Vasco Errani, che è il presidente dell'Emilia Romagna, tanto per citare un esempio. E poi persone come me che provengono dall'immigrazione e hanno maturato un'esperienza e ritengono condivisibile il progetto. Per adesso devo dire, per chiarezza, insomma, che non siamo presenti in tutta Italia perché la struttura ma intanto si può telefonare alle sedi del partito. Per adesso consiglio di contattare l'ufficio immigrazione nazionale al 0667 11 305. Quindi lunedì il forum ha promosso questa assemblea nazionale aperta al pubblico, in cui insomma si discuterà di partecipazione politica, dell'esperienza dei forum, come gli immigrati si trovano nel partito e nella politica in generale, e si racconteranno le esperienze concrete fatte nelle province, le difficoltà che hanno gli immigrati, diciamo, nel rapportarsi col partito e con la politica in generale. E poi i lavori saranno conclusi dall'onorevole Fassino, che è il segretario del nostro partito.